tornato anche questa sera qua. Non fraintendere mi fa piacere, però bene non ti fa. Ascolta tutto il sashimi che ingoi, non risana le ferite che ti porti dentro al cuore. Ordini ghiozza, il cielo singhiozza, pensi al suo viaggio a Saragozza, sembrava amore invece era una stronza. Amen. Sono cose che succedono in Erasmus, stagni all'ombra come stavano i d'Erasmus. So che ti senti vivo solo quando viene il sushi, ma non vorrei finirsi proprio come John Belushi. Monster Echo ci ha insegnato tutto sulla vita, cioè che una risata è più forte di un milione di grida, Ciao, come va? Dicono che la speranza è l'ultima a morire, ma di certo è la prima a mandarti a fanculo. Ma chissà lei che cosa fa là, ha trovato la felicità tra le braccia di un tipo spagnolo che dice te quiero ma non l'amerà mai come te, che sorseggi il tuo sake. Ma che cosa vuoi che sia, l'hai presa con filosofia, ma era quella di Kierkegaard. Ed è per questo che ti trovi qui a parlare d'amore e di vita con un cameriere dello you can eat. So che ti senti vivo solo quando viene il sushi, ma non vorrei finirsi proprio come John Belushi. Monster Echo ci ha insegnato tutto sulla vita, cioè che una risata è più forte di un milione di grida, di un dio adolescente che gioca alle Sims di sera. E l'apocalisse non fosse altro che te, sua mamma che dall'altra stanza lo chiama per cena. Anche se scimmia su scicco, tutto ferisce, tutto ferisce, tutto ferisce, ci arrivo. Tutto finisce, tutto finisce. Anche se scimmia su scicco, tutto ferisce, tutto ferisce, tutto ferisce, ci arrivo. Tutto finisce, tutto finisce. Anche se scimmia su scicco, tutto ferisce, tutto ferisce, tutto ferisce, ci arrivo.